Parliamo di un podcast che tratta un argomento molto particolare, si intitola Il Buco, pionieri dell'eroina, insomma dal titolo si capisce un po' di cosa parla, però noi per approfondire questo tema siamo al telefono con l'autore, Maser Pasquali, che è appunto al telefono con noi. Buongiorno. Buongiorno. Come nasce l'idea di questo podcast, come l'hai poi sviluppato? Guarda, questo podcast è nato da un'esigenza che è arrivata dopo aver sviluppato un altro progetto che avevo fatto sempre nella zona di cui parla poi dopo anche il buco, ed è anche la zona dove sono nato. Era un progetto dove ho intervistato un centinaio di persone, cioè 100 persone, e molte delle persone che ho intervistato tra i 65 e i 70 anni mi parlavano degli anni 70, della loro gioventù e del fatto che hanno perso moltissimi dei loro amici per colpa dell'eroina, persi a volte nel giro di pochissimo tempo, altri per altre complicazioni legate all'eroina, e quindi ha lasciato un qualcosa, un'impronta, una traccia, un solco, ha un po' stracciato quello che era il tessuto sociale della città di Follonica e di Grosseto in quel periodo, ma che tuttora è una ferita aperta, perché comunque dopo poi sono successe tutta un'altra serie di cose legate a questo arrivo dell'eroina che hanno veramente destabilizzato quello che era il tessuto sociale. Il podcast si apre con il ritrovamento del cadavere di una ragazza morta appunto di overdose, e poi si apre a tutta una serie anche di testimonianze, perché non è solo storytelling, tu hai realizzato anche delle interviste. Assolutamente sì, cioè lo storytelling di fatto c'è principalmente nella prima puntata, che è di fatto un prologo dove introduco l'antefatto, che è la tragica scomparsa, la tragica morte di questa ragazza ad Orbetello, che ha dato il via a una serie di arresti che hanno portato poi al primo grande maxi processo in Italia contro lo spaccio e l'uso di eroina. Poi al tempo la legge, l'interpretazione della legge equiparava sia i venditori che i consumatori, quindi c'è stata un po' anche una caccia alle streghe, oltre che a dei responsabili veri e propri di quella morte, e ha aperto un po' tutta una serie di problematiche. Quindi l'idea era quella di intervistare, di dare la voce a chi quel periodo lo ha vissuto e quindi si è visto arrivare l'eroina, e ancora non c'erano le consapevolezze di oggi, non si sapeva quasi niente di quelli che erano poi dopo le conseguenze, gli effetti, tutto quello che poi dopo si portava dietro il consumo di eroina, persone che l'hanno consumata e l'hanno venduta, e queste sono tre testimonianze legate proprio agli anni 70, proprio all'inizio dell'avvento dell'eroina e quindi anche dello sviluppo delle dipendenze in Italia. E poi ci sono tre testimonianze di persone che oggi cercano di combattere o di sostenere, supportare le persone, cioè combattere chiaramente la diffusione delle sostanze e cercare invece di dare un supporto alle persone che invece hanno una dipendenza. Quindi ci sono un prete che ha fondato una delle prime comunità di recupero, che tuttora comunità terapeutiche, e che tuttora gestisce da 38 anni, quindi anche un'esperienza, e fa un excursus partendo da quello che è stato l'inizio fino ad arrivare all'oggi. Una storica, Vanessa Roghi, che invece racconta tutta l'evoluzione storica, sociale e politica legata all'arrivo dell'eroina e della diffusione di tante altre sostanze che poi dopo si sono avvicendate nel corso degli anni, e uno psichiatra che lavora al CERD e che quindi ha il polso della situazione sull'oggi, su quelle che sono le situazioni dell'oggi. Quindi sì, sono 6 interviste, ogni puntata un'intervista approfondita a queste persone. Io faccio un piccolo cappello introduttivo, ma per dare un po' i parametri e il modo di capire chi è che sta per iniziare a parlare, ma poi di fatto la narrazione è principalmente affidata a loro. Parlando di eroina, tu prima parlavi dello stravolgimento del tessuto sociale che ha prodotto. Tra i protagonisti di quell'epoca c'era anche una tesi che l'eroina fosse stata uno strumento anche per stroncare movimenti politici e sociali che si stavano affermando. Cosa ne pensi? Guarda, ci sono tante tesi legate all'arrivo delle sostanze, dell'eroina in particolare. Si possono pensare, e chiaramente ci sono stati tanti approcci rispetto a questo. Sicuramente quello che non è innegabile è il fatto che attorno all'eroina girassero tanti soldi, e come ben si sa, purtroppo la gestione di così tanti soldi legati a questo può muovere tantissimo i gangli del potere, può andare a influenzare la politica per tanti motivi, anche perché erano anni complicati quelli degli anni 70, dove c'erano tante infiltrazioni all'interno sia dei movimenti da parte dei servizi segreti, si è parlato di servizi segreti deviati, quindi ci possono essere state sicuramente anche delle volontà politiche di questa diffusione, ma altre sono sicuramente state unte in un qualche modo a dare una mano o girare lo sguardo da un'altra parte, perché chiaramente se vengono offerti tanti soldi a determinate persone, chiaramente certe sostanze circolano in maniera indiscussa senza avere troppi problemi, quindi i motivi sono tanti. Individuarne solo uno, limitarlo solo a quello, secondo me, come mio parere personale, è un po' limitante, perché i motivi sono tanti. Parliamo appunto delle persone anche che hai intervistato, di quelli che sono stati i consumatori. L'eroina a che bisogni rispondeva? Bisogna capire, cioè in realtà non è che l'eroina rispondesse ai bisogni. L'eroina, almeno da tutte le testimonianze che ho raccolto, ti genera dei bisogni. Il bisogno di continuare a vivere la prima esperienza che tu fai dalla prima assunzione, che dai racconti che ho raccolto è chiaramente un'esperienza molto forte, un'esperienza che, come tutte le esperienze molto forti e piacevoli, perché è inutile nasconderlo, all'inizio molte sostanze che si consumano sono estremamente piacevoli, poi però piano piano purtroppo cominciano ad arrivare degli effetti collaterali, e il problema soprattutto dell'eroina è che all'inizio hai determinate sensazioni, piano piano a forza di usarla perché vuoi continuare a viverle, queste sensazioni si affievoliscono, poi piano piano queste sensazioni lasciano lo spazio, scompaiono, quindi il piacere diventa sempre meno e sempre di più diventa una necessità perché purtroppo l'eroina va a insinuarsi in alcune parti del cervello che vanno a bloccare la produzione di alcune sostanze che servono a non provare dolore. Quindi a un certo punto diventa un'esigenza farsi di eroina, perché se no provi un dolore indescrivibile. Quindi il craving legato all'eroina è anche legato a quello, oltre alla ricerca del piacere. Cosa che poi dopo spesso si evita di dire o si evita di pensarci, si pensa che chi si fa di eroina lo fa perché è un egoista. A volte passato del tempo diventa veramente una necessità. Tu appunto racconti l'eroina all'inizio negli anni 70, leggendo anche le cronache di oggi si vedono allarmi più o meno analoghi che riguardano altre sostanze, la cocaina, il crack, oppure se penso agli Stati Uniti il fentanyl. C'è il rischio che si riproduca una situazione simile a quella dell'eroina di 50 anni fa? Guarda, la diffusione delle sostanze, da quello che mi raccontano sia le persone che con tutte le persone con cui ho parlato e che tutt'oggi si occupano del supporto a persone con dipendenze, non se ne sono mai andate, nel senso che c'è stata un'evoluzione delle sostanze, un cambio di sostanze di elezione, quindi se negli anni 70-80 l'eroina andava fortissima, alla fine degli anni 90, già a metà degli anni 90, ha cominciato ad andare molto forte chiaramente la cocaina e poi anche il crack. Poi legato ad altri ambienti, ad altre situazioni, ci sono tantissime droghe sintetiche di vario tipo e tra cui poi dopo negli ultimi anni sta arrivando chiaramente anche il fentanyl in Europa. È un fenomeno, è una diffusione che è nata in America legata insomma a tutta una serie di situazioni spiacevoli, ci sono anche svariati articoli, documentari legati alla diffusione del fentanyl che secondo me varrebbe la pena proprio di guardare e ascoltare. In Italia, per quanto ne so io, per quelle informazioni che avevo raccolto, sta cominciando ad arrivare, non c'è ancora una diffusione capillare, però piano piano sta arrivando anche in Italia, quindi il pericolo c'è. Poi, come racconta una delle persone all'interno del podcast, c'è un baratro, c'è un dirupo, si fa finta che questo dirupo non ci sia perché si parla poco di dipendenze, si parla poco dei problemi, si parla poco delle conseguenze, c'è nell'aria, non bisogna farlo, non bisogna, meglio evitare certe situazioni, certe cose, però se te non accompagni le persone davanti al dirupo, glielo fai vedere, gli fai vedere cosa c'è, cosa può succedere, dopo uno può decidere chiaramente, liberamente di lanciarsi, ma alcuni si lanciano in questo dirupo, ci cadono senza neanche sapere che c'è e dov'è, e quello è un problema. Come si può ascoltare il tuo podcast? Guarda, il podcast è disponibile su vari portali tipo Spotify, Spotify, Apple Podcast, sto cercando di metterlo anche su altre piattaforme. Sono 7 puntate, c'è un prologo di 12 minuti dove introduco tutte le storie, la storia e i sei protagonisti di ciascuna delle interviste, e poi ogni puntata c'è un'intervista approfondita, un racconto intimo, profondo e sentito di persone che ci hanno avuto a che fare a vario titolo. Io ti ringrazio, ricordo appunto il titolo del tuo podcast, che è Il Buco, Pionieri dell'Eroina. Grazie mille. Grazie a voi, grazie a te.